RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, un co-conduttore d'eccezione da Sky TG24, Alessio Viola. Che bello che tu sia tornato, Alessio. Ritorno, io ti vorrei sempre. Però diciamolo agli ascoltatori, dobbiamo mettere d'accordo tutti i turni. Tutti i 24, i 24 miei, il TG24 mio, il Radio 24 tuo. Sono 48 turni. Poi da se mettere... stiamo troppo insieme, facciamo un 48. Un 48, peraltro facciamo anche rima. Esatto, cioè, ciao Marta, ciao a tutti, ciao a tutti, bentrovati. Allora, caro Alessio, facciamo una cosa un po' particolare. Andiamo a vedere cosa è successo in tutto il 2019. Vabbè, allora no, in tutto il 2019 no, perché in un'ora non ce la facciamo. Però sai cosa mi ha incuriosito molto per ripercorrere un po' quest'anno che ci ha tenuto compagnia? Allora, le ricerche su Google. Ah, quello perché sì, secondo sempre. Me le ricerche su Google dicono tantissimo di quello che... Che siamo, che ci ha interessato. Allora, io ho scelto una clip, anzi, Alessandro Schirano ha scelto per noi una clip un po' particolare per introdurre questo argomento. Pronto? Va bene, faccio quello che vuoi. Non ti farò ascolti, mia. Non ho scelta. Se non canto non vivo. Ci vediamo domani in sala. Un'altra cazzata sei fuori. Allora, questa era una clip dalla serie televisiva, dal film per la TV Io sono Mia, la storia di Mia Martini. Bellissima. Allora, con Serena Rossi, favolosa. Una delle parole più cercate su Google quest'anno, anzi delle espressioni, è il nome di Mia Martini, all'ottavo posto della top 10. Sai perché mi è piaciuto molto questa ricerca? Perché secondo me dice molto dei giovani che si trovano a vedere delle cose sulla TV tradizionale e vanno a cercare qualcosa di più dove possono. Eh sì. Questa parola è una cosa bella, tra l'altro, perché è anche bene che vadano a vedere qualcosa di un passato, perché è quello che facevamo un po' noi quando non lo facciamo con il computer. Però io mi ricordo che andavo a cercare qualche film quando vedevo in televisione Aldo Fabrizi, certo, qualche film di Manfredi, qualcosa che sta un po' prima generazionalmente. Andarlo a riscoprire è bello. E così è stato per Mia Martini. Il nome però più cercato, la parola più emergente su Google nel 2019, anche in questo caso non è una parola ma è un nome, ed è quello di Nadia Toffa. Un po' inevitabile, perché è una storia che ha coinvolto, commosso, ovviamente rattristato tutti. Un personaggio dalle caratteristiche veramente importanti per quest'anno, perché ha rappresentato la speranza, poi ha rappresentato anche l'accettazione, ha rappresentato dei messaggi positivi. Insomma, è stata una storia che ha colpito tutti. Sì, assolutamente. Tant'è che riesco a dir poco ancora, guarda, perché insomma, è una cosa brutta poi alla fine. Al di là di quanto poi puoi metterci la battaglia, il coraggio, l'aver dato forza anche a tanta gente, poi però purtroppo c'è una tragedia, quindi... E lei è al primo posto anche dei personaggi, al secondo posto Luke Perry, anche qui un'altra storia tragica, perché purtroppo è mancato improvvisamente, al terzo posto ancora Mia Martini, vedi? E tra qui... i personaggi emergenti. Tra i personaggi emergenti evidentemente, ha creato tanta curiosità. Ma tornando alle parole, vabbè, Sanremo c'è sempre. Mi ha stupito però che sta al terzo posto Sanremo, sì. Ma perché Sanremo di solito, cioè nel periodo di Sanremo, durante il mese, un mesetto dopo, in quel mese ci sta. Non si parla di nient'altro. Sì, ma in quel mese, che però queste sono le parole del 2019, che resta tutto l'anno, quindi però. Resta tutto l'anno, come è stato tutto l'anno al secondo posto Notre Dame, lì anche qui siamo sulla cronaca. Sì. Le elezioni europee. Il governo. Che resta una parola tutto l'anno, è già difficile questa, perché... Joker, che in effetti sta bene con il governo. Mahmood è anche lui, e al decimo posto Thanos, e ho dovuto googlare pure io. E che aiutami però. Guarda, sai che c'è una cosa per scoprire? Google. googliamo tutti. Allora, okay, andiamo invece sulle, sulla parte più divertente, che è come fare. Ah, questa è divertentissima. Ah, questa, questa mi fa impazzire. L'ho cosa vista anch'io, c'è una cosa che mi fa morire da ridere a me. Allora, vai. Come fare le più cercate su Google nel 2019? Uno, domanda navigator. E questo è bellissimo. Questa è bellissimo. È attualità, vita pratica. La seconda, sono caduta dalla sedia. Cubo di Rubik. Ancora, nel dici 2019. Tu? Ancora. È tornato, io non me ne sono accorta. È un po' come domanda navigator, tutto sommato. Che poi... è comunque enigmatico. La terza è... la, un classico. Valigia. La valigia. Come fare valigia. Come fare valigia. Come fare valigia. Però devo poi provare a googlarlo, perché vediamo se la faccio giusta o se mi danno. Come fare... Quarto posto, quarto posto. Nodo alla cravatta. Nodo alla cravatta, esatto. E questo, secondo me, va cercato anche su YouTube. Però aspetta, però non ti voglio far spoilerare il quinto, perché ci voglio arrivare, perché io l'ho vista, dando un colpo d'occhio a tutte le 10 posizioni, a me mi era caduta l'occhio sul primo posto, domanda navigator. Dico, mamma mia, la situazione di navigator. Sì. Poi, all'ottavo, te lo spoilero io, c'è la fattura elettronica. Beh, questo, che è una roba terribile. Del 2019. Poi c'è testo argomentativo... Ed è questo per gli studenti. E io ti spoilero il quinto posto, che secondo me è legato a questi: passaporto. Cioè, scappare. Gente che se ne vuole andare. Gente che se ne vuole andare. Allora, poi ancora sulle ricerche abbiamo come fare i boccoli. I boccoli. Carino, carino, carino, carino. Ci dice tanto delle tendenze. E come fare chignon, anche su quello io sono a posto. Sì, anch'io. Anche tu. Come fare l'aereo di carta. Quell'aeroplanino, che bello, l'aeroplanino, dai. Tenerezza, l'aeroplanino. È bellissimo. Questa, chissà, guarda, se tra l'altro su Google magari c'è una modalità per farlo diversa da quella che usavamo noi quando facevamo gli aeroplani di carta. E poi andiamo a vederle tutte, perché si come, sarà come il cubo anche di Rubik. Esatto. Eh sì, come il cubo di Rubik. Comunque, alla fine Thanos è un personaggio degli Avengers, niente di più. Ah, no, vabbè, so. Allora parliamo di cose tenere, perché c'è un anniversario che io pensavo fosse il 40esimo, invece è il 41esimo, ma sì, mi ha fatto una grande tenerezza, perché in realtà questo film compie 41 anni, ma l'attrice e l'attore protagonisti si sono rivestiti esattamente come quel film di 41 anni fa. Lei su Instagram ha chiamato a raccolta i fan: veniteci a vedere, così. Hello Jacksonville, Olivia Newton-John here. I hope you can join me and John Travolta for our special meet and greet sing-along at Daly's Place. Dress as your favorite character from the film, and after the sing-along, join us for a special Q&A with the audience. Click the link below to get your tickets. Hope to see you there. Olivia Newton-John che ha invitato i fan, cioè qui stavo ballando proprio, perché noi ci sentiamo, cioè proprio siamo troppo Sandy e Danny Zuko. Sì, Sandy. La prossima volta ci vestiamo come Sandy e Danny Zuko. Sì. Vuoi fare Sandy o Danny Zuko? Mi viene meglio John Travolta. Ti viene meglio John Travolta? Forse non so, anche io. È una questione d'Italia, credo. Anche. Allora, fantastico. Devo dire che vedere loro su Instagram. Lui c'ha la parrucca. Sì, che cioè, poi cioè, è quello che aveva anche fino a qualche anno fa, quando poi abbiamo scoperto il trucchetto. Esatto. Lei è ancora in forma. No, dai, però stanno benone. Andatela a vedere sull'Instagram di Olivia, in particolar modo, mi pare. Sì, sì, di Olivia, sì, io la chiamo Olivia, sai. Olivia, amica, io la chiamo nostra. Olivia, una nostra amica. Però sì, stanno alla grande, dai, stanno bello, benone. Bello, bello, bello, bello. Io cosa avrei dato per andare, guarda, al sing-along, cioè tipo al karaoke con loro e tutte le canzoni di Grease. E poi meet and greet, cioè per incontrarli e fare le domande. Beh, ragazzi, se avete più di quei 30, 35, questa vi ha fatto emozionare. Allora, mentre io e Alessio Viola continuiamo a ballare, a cantare questa canzone, diamo la linea alla viabilità e poi saremo ancora insieme per un altro fenomeno, beh, imbattibile, imbattibile. A tra poco. Radio Tube Social Network. Abbiamo parlato nel primo blocco delle espressioni più cercate su Google nel 2019. Secondo me qua non è stato cercato tanto perché è arrivato proprio alla fine dell'anno questo fenomeno. All'ultimo, in coda. All'ultimo, meno male. Meno male, se no. Ed è il fenomeno dei biscotti alla Nutella. La follia. No, la pazzia. Ma c'è un mercato nero, ho scoperto. Ma ho letto anche. Appunto che la gente li vende su eBay. Io purtroppo, devo dire, con grandissimo dolore... Non l'hai mai mangiato uno? No, li trovo sempre. Ah, li trovi sempre? Non dire dove, è un segreto ben custodito. Ma magari non li trovassi, invece li trovo, li compro e li magno. Soprattutto attenta a quando esci, perché poi lì è come la posta, no? Cioè la Vespa che ti prende e ti scippano i biscotti. Sì, ma soprattutto quando fai la spesa e dici no, non metto il sacchetto dietro, perché sennò rubo già mentre guido verso casa. Comunque gli YouTuber si sono inventati questa sfida, fanno il biscottone fatto in casa. Ok. E si sono inventati la sfida di farlo più grande possibile. Io ho preso il video di Global Scream, che c'ha qualche centinaio di migliaia di visualizzazioni, eccolo qua. Il video sulla Nutella gigante, sul Nutella biscuit gigante. Guarda, l'ha fatto pure JumpyTech 20 minuti fa! Allora, sapete che c'è? Dato che ormai abbiamo comprato tutte quante le cose, a sto punto già lo facciamo, perché 3 kg di Nutella non credo che li mangerò entro i prossimi 5 mesi. Ah, ok, ma quindi se lo so fatti preparare. Va bene, quindi Jumpy ce lo siamo tolti. Beh sì, lei lo sta facendo comunque. Ah vabbè, però il suo non è tanto grande. Ok ragazzi, possiamo ancora fare questo video. La nostra intenzione è fare un biscottone tipo qualcosa del genere, che è molto più grande di quello che vedrete in altri video, eh? Sì, biscottone. Altri youtuber che fate cose prima di noi, 10 minuti dopo che compriamo gli ingredienti. Allora, ci serviranno innanzitutto 4 uova. Allora, praticamente lo fanno. Solo che lui era arrabbiato perché ha avuto l'idea. Gli altri che avevano avuto l'idea gliel'hanno rubato. Lui ha fatto in tempo a comprare gli ingredienti, allora ne ha fatto uno più grande. Adesso diventa introvabile anche il biscottone. Pare che alla fine fosse anche abbastanza immangiabile, perché c'era uno strato di crema tipo di 5 cm. Però che strana questa cosa. Io non pensavo, nel senso che alla fine... Però sono quelle cose che si propagano in rete. Ti ricordi un tempo quando c'era la cosa devono tornare i Winner Taco? Tutti impazziti che volevano il Winner Taco. Però io sulla Nutella Biscuits poi in realtà non sono proprio c'ho una critica. E dopo adesso ci chiama la Nutella, ci criticano, ci dicono che... No, però io devo dire che la Nutella però è più buona col salato. Ah, tu sei di quella cosa lì. Io sono team pizza con la Nutella. va bene. Pizza è romano, quindi romano. Per pizza intende, cioè la pizza bianca, che è una cosa pizza un po' bianca, particolare. A Milano non la trovi. A Milano non ci sono carboidrati per strada. Milano non ci sono carboidrati per strada, è vero però. Ed è vero, lo so, te lo dice un romano. Quindi... È vero, non ci sono carboidrati per strada. Altre follie dell'anno, andiamo subito a prendere, abbiamo un video di Fiorello, personaggi dell'anno grazie a Viva Rai Play. Ecco cosa ha detto in una delle prime puntate, ecco qua. Pensate che insieme hanno 11 milioni di follower, praticamente tutto l'ascolto di un'intera giornata di Rai 1. E sono loro, eccoli qua, venite. Luciano Spinelli, qua. Ed Elisa Maino, come state? Benissimo. Allora, per questione di policy non possiamo dire il nome del social, lo chiameremo... Chip Chop. Chip Chop. Allora, loro sono star di Chip Chop, è un social cinese temutissimo dagli americani, perché gli americani pensano che lì i cinesi spino. Voi siete spie? No. Coinvolgeranno alcuni miei ospiti facendogli fare i vostri... Allora, a parte il fatto che come allora mi stupisco che... Allora, diciamo Twitter, diciamo Instagram, diciamo YouTube, però TikTok bisogna... Non l'ho capita, però. Tu magari che conosci un po' qualcuno, cioè, vicino a Fiorello... Ah, ma dopo ce n'abbiamo uno in diretta. Ce n'è uno, infatti, lo possiamo chiedere a lui. Chiediamo a lui, abbiamo un amico di Fiorello in diretta. Quello sta là. Dopo glielo chiediamo. Non si può dire. Ma cosa succede su TikTok, anche se a me piace di più quando dice Chip Chop. Che per noi a Milano Chip Chop non Chip è proprio Chop. E vorrei ricordarvi che noi Luciano Spinelli l'abbiamo avuto ospite a RadioTube tipo 2 anni fa, esatto, quando ancora diciamolo, faceva i musical lì, diciamolo. Perché noi siamo avantissimo. Ma TikTok è un po' musical. Allora, TikTok è... Aspetta. Vabbè. TikTok è l'erede di Musical.ly, però mentre Musical.ly era sostanzialmente un sibling, un lip sync, sibling, sì. Tutto il contrario, un lip sync, cioè si mimavano le canzoni, su TikTok succede anche questo. No. Si sono solo risate. Ma si cosa ride succede? Molto su TikTok. Ma cosa succede? Allora, cerchiamo di farci spiegare qualcosa da un super esperto. Allora, noi lo utilizziamo come super esperto da un sacco di tempo. Adesso gli devo anche fare delle domande, però. Certo, perché devo... È il capo di marketing da Bazool, anche se a me piace anche chiamarla Buzzole, perché così capite come si scrive. Vincenzo Cosenza, chiocciola Vincos. Ciao Vincenzo. Ciao. Ti ciao, è piaciuto guarda. Questo mio modo di spiegare TikTok? Sì, poi si capisce. Ma spieghiamo anche ad Alessio Viola perché questi ridono. Poi soprattutto anche io in realtà sono in una fase in cui devo imparare un po' a usarlo, perché l'ho scaricato, sta lì, c'ho un profilo con tipo 0 perché non faccio niente, sto cercando di capire come funziona. E se siamo troppo vecchi per farlo? È una tragedia. Questa è una tragedia. Vincenzo, allora voi avete fatto a Bazool anche la classifica dei TikToker italiani con più follower e quelli che creano più interazioni, ma facciamo un passo indietro, anche se ne abbiamo parlato tante volte di prima di Musical.ly e poi di TikTok. Torniamo ancora una volta a spiegare che cosa succede in TikTok e perché i ragazzi sono ipnotizzati adesso davanti a questo social. Ora, io la definisco un'app specchio perché di fatto trasforma la videocamera dello smartphone nello specchio della cameretta, lo specchio che abbiamo avuto tutti nella nostra cameretta, verso il quale insomma facevamo tutte le varie facce strane, ballavamo, cantavamo di fronte a quello specchio. Oggi quello specchio, cioè, è ballavamo, diventato... cantavamo, io lo faccio ancora. io con la con la spazzola o con lo spruzzino, quello dei vetri, lo faccio ancora. Ah, ok, fai un microfono, certo. Sai quanti festival di Sanremo ho vinto io così? ho presentato, sai quanti? Edizioni su edizioni. Quindi, posto che comunque forse lo faccio solo io a quest'età, i ragazzini che fanno ancora queste cose... Lo fanno ancora ed oggi hanno innanzitutto un sistema che gli permette di aggiungere effetti speciali, di aggiungere musica, ma soprattutto hanno un pubblico, possono raggiungere un pubblico che può essere più o meno ampio, grazie soprattutto ad un algoritmo particolare creato da questa azienda che mette in evidenza non solo i video più visti dagli altri, ma anche quelli meno visti ma interessanti, e quindi all'improvviso può scoppiare la notorietà di un profilo che magari ha pochissimi follower. Cioè, ma in realtà la cosa pazzesca di TikTok è che tu puoi guardare un video dietro l'altro anche di persone che non segui. Sì, innanzitutto non è necessario essere iscritti. Esatto, non è necessario essere iscritti, e TikTok ti mostra in continuazione 15 secondi di video a ripetizione uno dietro l'altro, quindi diventa una sorta di feed ipnotico che ti cattura di fatto, e quindi il tempo di utilizzo dell'applicazione è davvero molto alto, si parla di almeno un'ora al mese a persona, che per questo tipo di applicazioni è un tempo molto alto. Devo anche dire che spesso questi TikTok, cioè, non sono come le storie di Instagram che facciamo tutti in qualsiasi modo con una foto, cioè ci vuole un'arte per ma farli. Infatti questo, cioè, per realizzarli, dici tu che Marta, fare la storia ci mette in realtà veramente quei 10 secondi che poi è quello che durano più o meno 15, ma farli, realizzarli ci vuole un po' di più o è facilissimo anche creare l'effetto? Perché io lo osservo ma non riesco a fare, non ho fatto neanche una storia su TikTok. Quindi. Ma devo dire, per i giovanissimi risulta molto facile. Torniamo a bomba, torniamo al vero problema, Marta. Il problema è quello, sì. Bisogna capire un po' la tecnica, quindi la scelta della musica innanzitutto, che è fondamentale. Poi c'è un po' di preparazione, se vuoi fare un balletto e un lip sync, sicuramente i ragazzini prima di registrare Alessio, il balletto e lip sync. Ma dove andiamo? No, effettivamente è arrivato un messaggio. Non è per tutti, vabbè, Vincenzo, perché tu come sei messo? Dai, fai coming out. Come sei messo a balletti lip sync? Io malissimo, infatti non sono iscritto. Io sono uno. Ragazzi, dobbiamo smettere di fare i balletti senza essere iscritti. Bisogna iscriversi, allora, così e i nostri balletti. Dei balletti. In effetti è arrivato un messaggio al 349-238-6666. Più che altro è imbarazzante vedere gente di 30-40 anni, e vorrei dire oltre, che fugge da Instagram e YouTube e va su TikTok con esiti penosi. Perché non hai ancora visto noi? Mamma mia. Il confine con il ridicolo è molto labile su TikTok, quindi sì, che poi, è vera questa cosa in realtà, che ci sono anche Instagram, poi una volta cioè era più basso poi sì. L'età di chi lo usava. Poi arrivano gli adulti, cioè loro ne scoprono sempre qualcuno di nuovo, ne hanno qualcuno di nuovo. Sì. Poi arrivano gli adulti che se ne impossessano, praticamente loro scappano e ne creeranno un altro presto. E questo è tipico di tutti i social, è un po' il livello di maturità cambia col tempo e di fatto entrano gli adulti e cambia anche un po' la natura stesso dell'oggetto del social. Allora, nella vostra classifica, nella classifica di Basul, per follower la medaglia d'oro va appunto a Luciano Spinelli, che abbiamo scoperti citato prima. Scoperti da Marta qui a Radio Tube. Guarda, sì, perché è colpa di Marta. Perché guarda, sono stata la prima a ospitarlo e vi dico solo che poi mi sfidava a fare le challenge. Sì, e dicevo io non posso farcela. Perché le challenge? Perché queste sfide sono molto usate su TikTok e infatti nella classifica per engagement, per interazioni, al primo posto c'è l'account La Presa Twins, gestito da due fratelli, Nicholas e William, anzi sono due gemelli, fanno proprio delle challenge proposte dalla rete. Cioè, che challenge? Di fatto sono proposte molto spesso non solo dalla rete, dal basso, ma proprio dal reparto marketing, diciamo, dell'azienda TikTok, che ha inventato questa formula per ingaggiare la community, per tenerla sempre attiva. Di fatto lanciano degli hashtag chiedendo alla community di appunto sfidarsi con dei video per fare qualcosa, non so, camminare all'indietro, ovviamente in maniera creativa, quindi o fare dei balli particolari, e a quel punto tutti qua, insomma, quelli della community iniziano a fare questi video a tema utilizzando l'hashtag di riferimento. Io proverei col ballo del quacquà e vediamo se questi sono in grado di farlo. Potrebbe essere un'idea. Vediamo, io li sfido a ballo del quacquacquare. Ultima domanda, mentre Alessio... Siamo dei boomer. Ok, boomer. Allora, Vincenzo, l'ultima domanda che ti voglio fare è quella poi più complessa. Perché quando un social va bene, chi arriva? A, i politici, e in Italia qualcuno ci ha provato. B, le aziende. Ma su TikTok questo funziona? Guarda, lo dicevo prima, il rischio del ridicolo è veramente molto, molto alto, soprattutto per i politici, onestamente. Per le aziende è un problema, infatti in questo momento sono molto guardinghe, poche sono quelle che hanno un account. Quello che preferiscono fare è per esempio utilizzare la pubblicità nativa della piattaforma. Tra le forme pubblicitarie c'è proprio quella di lanciare delle sfide. Quindi un'azienda può lanciare una sfida con il proprio hashtag e chiedere alla community di fare dei video a tema. In questo modo non si sporca le mani e fa dà visibilità al suo brand. È complicato anche perché ormai chi si occupa di marketing dovrebbe assumere dei dodicenni in azienda. Sì, alcune aziende lo stanno facendo. Accidenti. Non dodicenni, ma diciottenni, diciannovenni. Sì, mamma mia. Vabbè, allora noi adesso nella prova, nella pausa facciamo le prove. Okay? facciamo le prove, facciamo le prove di TikTok. E poi non ce ne sarà più per nessuno. Luciano Spinelli, ti sfidiamo, adesso arriviamo noi. Grazie a Vincenzo Cosenza, Head of Marketing di Bazool. Grazie mille per essere stato con noi e per averci spiegato un po' di cose di questo mondo che bisogna per forza conoscere per parlare con i più giovani. Grazie Vincenzo. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco e parliamo ancora di giovani giovanissimi di cui, insomma, non è possibile non parlare. Salve a tutti, da Massimo De Donato vi aspetto ogni sabato alle 22 a Strade e Motori, lo spazio di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Cercheremo di capire come sta cambiando questo mondo, quali automobili vedremo sulle strade nei prossimi mesi, qual è il futuro delle motorizzazioni tradizionali e come l'auto elettrica cambierà le abitudini degli italiani. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, sul sito di Radio 24, nella sezione auto, video, clip, i test su strada, le immagini e le schede dei nuovi veicoli provati. Strade e Motori, ogni sabato alle 22 su Radio 24. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio. Con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Radio Tube Social Network. Il ballo del qua qua e di papero che sa fare solo qua qua. Allora Ale, adesso qua le mani, no? Così. Poi le mani sui fianchi, sì, poi su. Sì, ma serve un effetto, serve un effetto. Qui cos'è che mettiamo? Filtro bellezza. Attivo. Anche, c'è anche il filtro giovinezza. Aspetta, attiva, che qua bisogna tutto girare. Bisogna, aspetta, chi tiene lo smartphone? Ma... di sotto braccio. Ma andrà bene sta canzone per TikTok? Secondo me sì, secondo me su TikTok questa spacca proprio. Ma... allora stiamo provando a usare TikTok col ballo del qua qua per salire nelle classifiche. È esplosa la mia applicazione. Si è disinstallata automaticamente. Raggiunto il limite di età, ti ha detto. Vabbè, scherziamo, perché è davvero un mondo pazzesco quello di TikTok. Facciamo pratica. Intanto io sto vedendo come è avvenuto il nostro TikTok, perché l'ho fatto. Ma secondo me è benissimo, secondo me è figo. E quindi avanti e posto. Descrivi il tuo video. Ma si posta come storia o è proprio video? Cioè non c'è una storia qui, non è come Instagram. Ma che ne le domande so di mio bisnonno. Esatto, chiamiamo Aranzulla. Come quando si blocca la lavatrice. Ma qui Google, secondo me bisogna chiamare il figlio lavatrice di Aranzulla, lo sai? Ragazzi, TikTok è veramente per i ragazzini, ma noi non ci arrenderemo e ce la faremo ad andare anche noi su TikTok. Allora, torniamo con Alessio Viola di Sky TG24 in questa puntata di RadioTube in cui stiamo sentendo contemporaneamente vecchi e giovani. Regrediamo. È tutto un mix. Allora, personaggio dell'anno secondo la rivista Time era abbastanza scontato. Eccola qua. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Personaggio dell'anno secondo la rivista Time è Greta Thunberg. Allora, era abbastanza inevitabile, dai. Sì, perché comunque quest'anno alla fine si è parlato di Greta. E quando non si parlava di Greta, molti sentivano l'occhio di Greta, di Greta addosso. Infatti, allora adesso lo so che lo so che molti poi mandano i messaggi dietro Greta, c'è questo, quest'altro. Ti dico la verità, a me poco importa. Sai perché? Perché alla fine io mi sento l'occhio di Greta. Io pure sì. Quindi io ogni volta che devo comprare una cosa dico: no, però questa ha troppa plastica, allora non la compro. Oppure sto più attenta. Se, io ormai uso sempre la borraccetta. Quando me eccola. La dimentico. Cioè, eccola sì, qua. Sì, ce l'abbiamo. Quando anch'io. Vado in mensa senza borraccetta, che prendo un bicchiere, dico: scusa, Greta. Giuro. Giuro, Alessandro Schira non lo sa. Se me la dimentico dico: scusa Greta. Chissà cosa ne pensa il nostro amico. Ce l'abbiamo Federico Taddia. Ciao. Eccoci. Federico, ciao. Come ti pare questa cosa del, ciao Federico, dell'effetto dell'occhio di Greta? Che bella questa espressione che ha coniato Alessio Viola, eh? Esatto, ma sai che quest'occhio di Greta, stavo pensando proprio mentre Alessio lo citava, è un po' l'occhio che noi genitori da qualche anno ci sentiamo addosso dai nostri figli un po' più piccoli, perché insomma abbiamo un po' cresciuto una generazione di rompiscatole, per fortuna, okay. Su questi argomenti, no? Perché comunque anche prima di Greta si era iniziato a parlarne tantissimo nelle scuole, e i più piccoli sono davvero sensibili a questa cosa. Io me ne sono accorto un sacco di volte, no? Scrivendo magari articoli su questi argomenti, che avevo poi i genitori che mi scrivevano dicendo: accidenti, non posso più fare questa cosa perché subito mio figlio mi riprende. Quindi credo che l'occhio di Greta non sia altro che un grande occhio di generazioni che sono un po' più attente e soprattutto ci guardano male quando noi, grandi e mal abituati, invece andiamo per la nostra strada. Qui mi piace perché è vero, ed è il disturbo poi che noi adulti abbiamo poi nei confronti di Greta, no? Sì. Ma, secondo me anche ci sentiamo anche sempre secondo in me. Difetto. No, ma secondo me è vera anche questa cosa che dici tu, è proprio nei confronti della nuova generazione. C'è un po' un senso di colpa anche perché poi spesso Federico, ormai molti genitori assomigliano sempre più drammaticamente anche ai loro figli adolescenti a volte, no? A proposito di TikTok, prima stavano facendo TikTok, adesso stanno su TikTok, giustamente. Vuoi venire con noi ti dice... a fare un TikTok col ballo del qua qua? Se no puoi scegliere un'altra musica che ti piace. No, ma perché ho già capito che non lo sapete fare, perché il ballo del qua qua andrebbe cantato rallentato, dove voi andate esatto. un po' a far esplodere i vostri movimenti, e li poi velocizzato. Poi velocizzato, e lì ho l'effetto comico, quindi siete proprio alle basi. Siamo alle basi. A proposito di basi, perché la terra, la febbre e tante altre domande sul clima che Federico Taddia ha scritto con Elisa Palazzi per Editoriale Scienza, è il tuo ultimo parto libresco, Fede. Esatto, era proprio andare incontro alle ragazze e ragazzi partendo dal sapere, no? Nel senso che si sentono bombardati poi da tutte queste informazioni. L'accusa più grande che è stata fatta a Greta e ai ragazzi è stata: andate a scuola invece che a stare in strada a manifestare. Sì, non sai quanti messaggi, vabbè, non sai, ti puoi immaginare quanti messaggi arrivano al 349-238-6666, andate a scuola invece di, questo esatto. È il classico. Beh, con questo libro abbiamo cercato di fare una divulgazione profonda e leggera, che è un po' il mio stile, come ben sai, spiegando alle ragazze e ragazzi cos'è il cambiamento climatico, cos'è la CO2, cosa si può fare, senza far cadere tutta la responsabilità su di loro, perché questo è un altro danno, no? Se continuo a dire il futuro del pianeta è nelle vostre mani, loro ci dicono: sì, vabbè, e voi cosa fate? Che poi è l'altro messaggio di Greta, no? Cioè, questo cambiamento facciamolo insieme. Allora, c'è un'organizzazione che si chiama World Organization for International Relations, io non la conosco, però mi pare interessante che abbia stilato una classifica delle influencer attiviste sui social per l'ambiente. Perché queste ragazze giovani, appunto abbiamo citato Greta Thunberg, ma ce ne sono altre come Tolmeia Gregory, Immi, Ellen MacArthur. Io confesso che sono giusto una fan di Greta Thunberg. Sono delle grete, insomma. Perché queste ragazze giovani sono così seguite, perché i ragazzi si sono così appassionati, in particolare a Greta Thunberg, perché non è la prima, in rete abbiamo visto video anche di qualche annetto fa di altre attiviste giovani che ormai sono diventate adulte, che alla loro epoca diffondevano i loro messaggi. Attraverso la rete, e quasi tutte queste attraverso anche agili tutorial, no? Dove non sono solo parole, ma proprio testimoniano nella loro quotidianità che si possono fare piccole cose, piccoli gesti, cioè che si possono fare veramente cambiamenti alla portata di ciascuno. E credo che sia questa la cosa che abbia avuto presa sui ragazzi. Cioè, sì, sei influencer, sì, lanci messaggi alti, però poi mi dai anche degli esempi concreti che io nel mio quotidiano posso mettere in atto. E credo che sia stato questo proprio il punto focale. Sono tutti bravissimi a usare i social, ma un uso positivo, no? Perché è un uso dove ti faccio vedere, no? Cioè, ci sono anch'io, cioè non sono lì col ditino alzato che ti accuso di non fare quella cosa, la faccio insieme a te e quella roba lì piace. Allora, la faccio insieme a te, c'è anche da dire che rispetto a qualche attivista di qualche anno fa di cui adesso circolano i video, prima era più difficile perché non c'era YouTube, perché anche se una ragazza molto giovane faceva un appello alle Nazioni Unite, prima che si potesse diffondere passava un sacco di tempo. È vero, quello, insomma, se tocchi le corde giuste è anche l'urgenza è aumentata. Credo che sia, cioè, poi quando vedi nel concreto che veramente la nostra quotidianità sta cambiando per colpa dell'inquinamento, per colpa del cambiamento climatico, la tua sensibilità aumenta, però i social e comunque i nuovi mezzi di comunicazione hanno sicuramente amplificato la viralità, insomma, di questi messaggi. E poi Greta insomma è anche un personaggio, è un pipi calze lunghe, probabilmente era al momento giusto, c'ha la faccia giusta, c'è anche tanto contorno giusto. Beh, molto fa anche lei, infatti, perché sì, lei poi ha questo visino dove le emozioni o non passano o passano tantissimo, vero Federico? Cioè, diciamo questa impressione, cioè sembra che non ne abbia qualche espressione, però invece a volte invece sembra che ne emergono e passano tantissimo, come quando ha incontrato Trump, no? Che ha fatto quel facciotto. Esatto. Poi ha fatto la cosa più trasgressiva che può fare un adolescente, no? Di stare un giorno a settimana a casa da scuola, ma non perché te ne stai in poltrona, ma perché vai come goccia cinese a fare la tua protesta pacata e silenziosa, comunque non urlata, no? Perché è stata una protesta silente, quella fatta con quel cartellone. Cioè, capito? Quindi riesci a essere trasgressivo, ma rimanendo te stesso. Quindi ha proprio toccato corde tipiche dell'adolescente. Quindi Greta è rock. Assolutamente. Beh, c'è Jacopo che ci scrive: Greta è un'epigona di Lisa Simpson. In effetti ci può stare. Un po' ci può stare. I Simpson hanno visto prima di tutti tutto. Quindi tutto. Qualsiasi cosa i Simpson l'avevano previsto. L'avevano già previsto. Allora, questa volta non parleremo degli odiatori di Greta, non parleremo dei sentimenti cattivi, perché no, siamo ancora alle feste. No haters e no greaters. Greaters, perfetto. E ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, Federico Taddia. Fammi ricordare la tua ultima fatica, Perché la terra ha la febbre e tante altre domande sul clima, scritto con Elisa Palazzi. Grazie Federico Taddia. Addia, abbiamo una domanda da farti, Fede. Lo so che è un po' indiscreta, ma perché Fiorello non può dire TikTok? Non si può? Ma che? Ma no, è un gioco. È un gioco? No, nel senso che non si possono dire un sacco di cose, no? Ma ci siamo accorti che, per esempio, nello stesso monologo in cui, o comunque nella stessa puntata in cui non abbiamo detto TikTok, avevamo detto comunque Twitter e Snapchat. Esatto, quindi vabbè, era un giocone. Ok. grazie a Federico Taddia. Abbiamo risolto il mistero con un po' di ritardo, ma io questa non potevo non chiedere. Federico lavora con Fiorello volevamo saperlo. Con un po' di ritardo mi scuso con i colleghi della viabilità. Andiamo a sentire come va la situazione su strade e autostrade e poi ci divertiamo un po' con i video in tendenza. RadioTube Social Network. Eccoci insieme per l'ultimo spicchietto di questo RadioTube Social Network con Alessio Viola, che intanto riesco a rapire da Sky TG24 per fare insieme un 48, la facciamo sempre sta battuta. Allora, da quanto tempo tu, Romano, vivi a Milano? 2 anni. Beh, ormai allora sei diventato milanese imbruttito? No, ancora no, ancora no. L'ultimo video del milanese imbruttito, io ho tolto le parti pubblicitarie, però complimenti all'azienda che l'ha scelto, perché poi alla fine è un testimonial, secondo me molto efficace, è un test per vedere se tu queste cose le fai. Vediamo. Io tutte. Il milanese imbruttito si sveglia prima della sveglia. 3, 2, 1, tec! Il Giorgiana invece ha 10 sveglie impostate ogni 2 minuti. Non mi voce. L'imbruttito è multitasking anche quando si lava i denti. Cambiare lo sloppo e la corte. Se non capisci, torna a dormire, no? Ti richiamo dopo. Va bene? Bene! Fa colazione in piedi anche a casa. Go! Ed esce bello carico per una giornata di business. Il Giorgiana si veste con le prime cose che trova nell'armadio, poi mette sulla moka e non fa altro finché il caffè non esce. Inzuppa il biscotto nel caffè latte, che puntualmente si rompe macchiando la camicia. No, ma allora sono scemo. Si cambia, mette portafoglio, cellulare e chiavi di casa nel suo marsupio e poi esce. Oh, andiamo. L'imbruttito in auto conosce tutte le strade per evitare il traffico. E si lavora all'interno. Solo un coglione può fare la circonvalla alle 8. Il Giorgiana fa la circonvalla alle 8. Oh, ma com'è che qua tutte le mattine c'è traffico? L'imbruttito lavora già in macchina. Facciamo il punto per il meeting? Sì. Che dobbiamo farli volare, sti chiappa. Fa un parcheggio creativo sotto l'ufficio ed entra per primo perché deve essere il primo a fatturare. Figa, il primo arrivare è l'ultimo a andare via. Numero uno! Il Giorgiana, dopo mezz'ora di ricerca, fa un parcheggio regolare a 2 chilometri dall'ufficio, arriva in ritardo e si fa cazziare dal suo capo. E chi il Forrest Gump, eh? Te la sei fatta a piedi anche oggi dalla Giorgiana, ma ti sembrava da arrivare? Scusi, signor imbottito, ma c'era traffico, poi non trovavo il parcheggio. Non trovavi il parcheggio, eh? E il cervello l'hai trovato? Sì, qui. Allora accendilo, che fa vrum vrum vrum, si mette in moto e poi capisci. In office l'imbruttito è sempre in sbattimento, manda mail mentre telefona e alle 10 del mattino è già al quarto coffee. Scusi, signor imbruttito, ma non starei esagerando con tutti quei caffè? Fatti i cazzi tuoi! Scusi. Il Giorgiana alle 10 del mattino invece è già al quarto mandarino. Buonissimo il mandarino, ne vuole uno anche lei, signor imbruttito? Fatti i cazzi tuoi! L'imbruttito, per fare il figo, usa inglesismi a cazzo. Ehi, già, follow me. Start 11 am, present in location con roadmap, abstract e business plan. Mi raccomando le due slide finali, motivation, che poi Blackbeard answer everybody, bullseye in the world, ok? Il Giorgiana risponde. Sì. Anche se in realtà non ha capito un cazzo. Il Giorgiana, appena scattano le 18... Boh, signor imbruttito, io vado. Ma se proprio non startare, scatta l'ora X, tiri su le tende, lo zainetto e via lo spostapoveri. Il milanese imbruttito, dopo l'office, va a fare un aperitivo veloce. Non si siede e parla solo lui. È Natale rigorosamente al caldo, con l'infradito. E non ascolta quando qualcuno prova a parlare con lui. Dormiti, perché sono le montagne più belle, poi c'è la Sella Ronda, ci sono la serie di... Bravo, tu sì che la sei lunga, eh. Oh, se non ci vediamo più, auguri. Giovanni, devo dirti una cosa, aspetta! Il Giorgiana, dopo l'office, va a fare un bel apericena a 8 euro con suo cugino. Ma guarda quanto cibo che ci sta, 2 montagnette ci sono. E tenta l'approccio con le vicine di tavolo. Ciao ragazze, come va? Tutto bene? Voi sapete come mai il pollo ha le ali, ma non vola? E stavo dicendo... Non lo sanno e non gli interessa saperlo. Vanno impegnate, vanno fidanzate. Noi comunque ci abbiamo provato, l'importante è quello. No, tu ci hai provato. Non c'è sconfitta nel cuore di chi ci prova. Il Giorgiana, anche al ritorno, prende la strada sbagliata. Oh, ma com'è che sulla circonvallazione c'è traffico a tutte le ore? Ma è possibile? L'imbruttito, quando rientra a casa, prepara colazione e outfit per il giorno dopo. E per addormentarsi, conta i K. Un K, due K... Io sotto i 20 K non mi addormento. Io sono impazzita, io le faccio tutte. Allora, posso dire che la scorsa settimana sono scesa a buttare la spazzatura lavandomi i denti per ottimizzare e quindi un vicino mi ha trovato per strada con il sacchetto dell'indifferenziato, anzi noi abbiamo la cassetta, la box dell'indifferenziato, sì. Mentre mi lavavo i denti sul marciapiede. Ma perché così si ottimizza, si va più in fretta? non mi sono milanesizzato allora. No. Infatti c'è Valeria Bernardi che è entrata in regia, ha detto io sono a Roma da Milano da 15 anni, ma anche lei secondo me non si è tanto milanesizzata. Cioè io sono una pigrizia che non è facilmente niente, anche tu parcheggi in Giorgiania. No, perché non c'ho la macchina a Milano, quindi, è vero. Un po' milanesizzato. Ecco, allora, altro video che mi ha fatto impazzire in questo periodo, io sono una grandissima fan dei The Jackal, che hanno parlato delle chat di gruppo. Quale ci ha scelto Alessandro Schirano? Sentiamola. Intanto nella chat famiglia estesa. Cominciamo con gli auguri del giorno. Buon compleanno a Ludovica! Buongiornissimo! Caffè! Yeah! Intanto nella chat Capodanno 2020. C'è qualcuno che vuole fare la fine dell'anno scorso sul divano e con il countdown in televisione? No! Ci sono proposte? Capodanno a Parigi con volo last minute? No! Serata in discoteca, ingresso più Brindisi, 140 euro? No! Concertone trash in piazza? No! E intanto nella chat Capodanno 2020! Signore, mancano 5 ore alla mezzanotte! No! No, veramente, mancano i 5 euro, ci dobbiamo muovere perché sennò non troviamo niente. Cioè, non dico di fare chissà che cosa, però, che ne so, una bottiglietta di spumante, un panettone, qualche cotechino, almeno per augurio, per far briga. Propongo cena a casa mia e il countdown davanti al televisore! Rompete le righe! E intanto nella chat ufficio! Oh, birra dopo il lavoro? No, guarda, riesco, domani mattina c'è troppo da fare. Intanto nella chat ufficio senza Ciro! Oh ragazzi, birra dopo lavoro? Sì! Intanto nella chat ufficio! Oh, allora facciamo domani magari? Guarda, no, perché guarda, proprio domani già so che c'ho la mano. Intanto nella chat ufficio senza Ciro. Che palle, ma fatti una vita! Chat ufficio. Però domenica bowling. Oddio, ma fatti una vita! E lì via messaggio. Scusate, ho sbagliato chat. Io chiamo l'ascensore mentre chiudo la porta, scrive un ascoltatore, effettivamente c'è anche quella, anch'io. No, allora io a casa non ho l'ascensore. Però, in effetti, allora, la chat dell'ufficio, noi non abbiamo la chat dell'ufficio, io mi scrivo sempre con Alessandro Schirano e noi comunichiamo con le emoji. In particolare, non so, lui mi manda tre razzi. Solo con le emoji, no, pensavo solo con le emoji, ma non riuscivate a dirvi niente. No, lui mi manda tre razzi, io gli rispondo con tre astronavi. Ok. Cioè, è così. Sono dei messaggi che poi voi capite. Sì, che poi noi ci capiamo. Okay. Ma no. Qual è il nome più assurdo di una chat che hai su WhatsApp? Oddio, guarda. Dai, confessa. Io ce n'ho troppe. Adesso prendo il telefono. Ce n'ho tantissime, ce n'ho troppe. Anche perché poi, è vero, succede quella roba lì. Poi ci sono le chat dove commenti quello che succede in un'altra chat. Stare attentissimo. Che poi c'è il singolo dove commenti quell'altra chat della chat, quindi si va come una matriosca, paura, sempre più stretto. Che paura, sì. Poi io sono molto vittima delle chat perché non riesco ad abbandonarle, mi sembra brutto. Io e quindi a volte io resto, devo silenziarle perché non io sto, silenzio, sto, silenzio. Sto lavorando, fatemi lavorare. Silenzio tantissimo, sempre, sto sempre a silenziare. Gran parte dei nomi delle mie chat hanno dentro delle parolacce, quindi non le posso dire. Un pochino anche io. Io, lo anche sai. Tu, un pochetto. Esatto, sì. Stavo vedendo adesso, ma ne cerco qualcuna, vediamo. Io ne ho, vabbè, c'ho quella del potere occulto, perché è quella che conquisteremo la galassia. C'ho Sanremo porco business. No, ne ho alcune non che non si possono. Sì, no, e non. Bisogna sempre fare molta attenzione. Vabbè, Alessio. Lo sai, a proposito di Sanremo, cioè adesso vi coinvolgo. C'è una chat dove c'era Andrea De Logu, sì. Una radio, concorrente, Francesco Montanari, dove facevamo dei collegamenti per Sanremo scorso. E ce l'ho ancora, sono andato indietro col telefonino, l'ho trovata ed era la chat che c'eravamo noi tre. Si chiama Collegamenti a cazzo. Ah, ok. Salutiamo l'ho Andrea, detta. Salutiamo Francesco. Allora, è il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie ad Alessandro Schirano in redazione, grazie a Peter Bescapè che questa volta ha cambiato orario ed era in regia con noi. Un grazie e un abbraccio enorme ad Alessio Viola, grazie, sai che noi ti aspettiamo, grazie, sempre. Grazie Marta, grazie, un abbraccio a tutti gli amici di Radio 24. E grazie noi a voi. Ci ritroviamo la prossima settimana.